Thank you. resterà la storia di una favola. Che favola non è? Fantasie di un mondo senza le città. Fantasie di un mondo senza età. Nella torre bianca dell'ingenuità. Ho sognato di vecchi nani, boschi e cieli limpidi e profumi lievi di lilla. Mentre ho intorno a me suoni di umanità e civiltà. pace. L'enorme abisso separa i due mondi. Ognuno pensa a sé come sa. Destini. Uno non sa annicchiare la noia sopra un vecchio sofà per capire in silenzio. Esperienze scorte. dei tuoi giorni passati, per capire in silenzio, per sorridere piano, dove sei, cosa fai. We'll be right back. must be your star. condotto da Caifa. I sacerdoti cercavano falsi testimoni. Ne vennero due che dissero: lui